Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Buongiorno a voi e bentrovati ad una nuova puntata di Questa casa non è un albergo. In studio con me, come tutti i sabati, Alberto Pellai, medico ricercatore, nonché pluripapà, insomma, con tutte le caratteristiche che servono per essere il coinquilino preferito e soprattutto il coinquilino di un programma come il nostro. Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Voglio ringraziare Giacomo Spunta in regia la parte tecnica e Gigi Borghi in redazione. Allora Alberto, oggi un tema che è rimbalzato su tutti i giornali. Sì, abbiamo cambiato anche noi il palinsesto che avevamo previsto per il nostro programma, ne hanno parlato tutti i giornali, una maestra a Novara ha fatto una lezione di educazione sessuale che i genitori o alcuni genitori hanno ritenuto troppo esplicita, disorientante per i loro bambini, per cui sono andati dal dirigente scolastico, ne hanno chiesto la sospensione. Il preside effettivamente ha parlato di un grave errore di ingenuità da parte dell'insegnante, ha detto una cosa che io personalmente, Nicoletta, non condivido. Il dirigente non ha saputo gestire in maniera scientifica le domande poste dai suoi alunni. Io parto proprio dall'idea che le domande nell'area della sessualità dei bambini hanno bisogno anche di una gestione di tipo scientifico, ma non è lì quello che a loro serve, è molto più emozionale, molto più relazionale quello che serve ai bambini. Insomma, questo ha scatenato un putiferio. Tra l'altro siamo rimasti molto incuriositi da un editoriale che Massimo Gramellini ha pubblicato sulla Stampa proprio poi il giorno seguente. Ne abbiamo estratto un breve brano che facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori per aprire il dibattito. La maestra ha spiegato, le bimbe hanno riferito a casa e... apriti cielo. I genitori hanno chiesto alla preside la rimozione della pervertita. Può darsi che abbia un po' esagerato, ma la maestra ha compiuto un'operazione importante. Ha tolto al sesso la sua morbosità. Il sesso non è un peccato di cui vergognarsi, per poi alludervi di continuo nelle barzellette, nei balletti e nella pubblicità. Il sesso è un gioco sacro, che diventa vizio solo quando viene investito di un'aura perversa di proibito. Fra programmi televisivi e discorsi di adulti intercettati in casa, da quante parole e situazioni a sfondo sessuale viene aggredito ogni giorno un bambino di 10 anni? Sì, può darsi che la maestra abbia un po' esagerato, ma mai quanto quei genitori che si sono scandalizzati per le sue risposte, invece di chiedersi in che modo i loro figli avevano appreso le domande. Allora Alberto, direi che abbiamo tutti i termini della questione. Il nostro numero verde è a disposizione degli ascoltatori, 800 24 0024. Cerchiamo un po' di capire da che parte stiamo. Sì, direi che la questione oggi è: voi come genitori siete d'accordo che nelle scuole dei vostri figli si faccia educazione sessuale? Oppure pensate che questa è un'area che dovete seguire soltanto voi genitori? E poi avete delle modalità che per voi sono accettabili e altre che invece ritenete inaccettabili? Ma siccome le domande sono tante e complesse, abbiamo un'esperta. È tornata a trovarci la dottoressa Roberta Giommi, sessuologa e psicoterapeuta. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a voi. E insomma, questo caso ha fatto discutere, ha un po' diviso anche i genitori, anche a noi, come al nostro programma sono arrivate diverse mail con delle posizioni assolutamente opposte. Cerchiamo di ragionarci per non farci prendere dal caso, ma prendiamo spunto proprio da questo fatto di cronaca per parlare dell'educazione sessuale che vorremmo per i nostri bambini. Come diceva Alberto, siamo noi come famiglia a doverla fare, oppure ci appoggiamo alla scuola, la facciamo qualcosa insieme, quali caratteristiche deve avere? Dottoressa Giommi. Ma dunque, allora intanto noi facciamo educazione sessuale da più di 20 anni e anche alle scuole materne e elementari. Credo che l'unica prudenza che possa essere importante è chiedere il consenso dei genitori presentando il programma, perché questo tutela soprattutto gli operatori che fanno educazione sessuale. La maestra ha fatto una cosa importante, che è quello di non dare un segnale che gli adulti hanno paura di tutto e che sul sesso non si può mai rispondere niente, tanto più che veramente la classe in cui anche noi, che siamo appunto esperti in educazione sessuale, soffriamo di più, sono la quinta elementare, dove ci fanno domande ancora imbarazzanti, mentre più tardi fanno più domande concrete. Credo che i genitori che scappano dalle domande in qualche modo non si ricordino o non sappiano che in realtà un ragazzo di 10 anni il computer lo sa usare, come può guardare la televisione la notte, e che forse impara tante cose molto più problematiche e difficili che non sia un adulto autorevole che risponde a delle domande. Dottoressa, lei dice più da 20 anni che facciamo educazione sessuale e lo fate con serietà e professionalità. Lei ha sottolineato l'importanza di mettere a disposizione i programmi. Ma come sono cambiati i bambini di ieri rispetto a quelli di oggi? Quelli di oggi hanno, come lei diceva, il computer, quindi possono attrezzarsi a recuperare delle notizie. Ma ci sono curiosità diverse, paure, tabù differenti rispetto a ieri? Intanto i bambini hanno sempre avuto grandi curiosità e in generale imparano nell'arco di un anno che non si possono fare domande. Questa è la cosa che dispiace molto a me, perché di fatto anche i genitori spesso e volentieri sfuggono dalle informazioni. Le domande sono abbastanza le stesse, a volte anche perché anche i bambini hanno delle domande base, perché le parole, appunto anche le parole pesanti, quelle che possono apparire volgari, comunque venivano pronunciate o vengono pronunciate appunto in casa, nelle trasmissioni, nel telegiornale, cioè quindi i bambini di oggi fanno un accesso più grande. Non mi fiderei del computer per passare le informazioni. Certo. Credo che sia importante che un adulto stia accanto e spieghi, abbia il coraggio di parlare. Alberto, bisognerebbe, quindi tante volte i genitori sfuggono perché non hanno le parole, non hanno le immagini. Ma in generale, proprio quando anch'io lavoro con i genitori, li faccio ritornare al tempo della loro preadolescenza e provo con loro a ricostruire come è andata la loro educazione sessuale. Quello che scopriamo tutti è che la nostra mente era piena zeppa di domande, le domande c'erano, ma esisteva come una sorta di vetro di cristallo, di filtro, per cui quelle domande non potevano realmente essere poste agli adulti, perché avevi come la percezione che non erano tanto disponibili a volerti dare le risposte. Quando le risposte anche arrivavano, erano risposte molto sfuggenti, molto evasive. Per cui c'è rimasto dentro proprio quell'imbarazzo nel costruire una relazione e una comunicazione intorno al tema della sessualità tra bambini e adulti. Non abbiamo imparato come si faceva quando noi eravamo bambini e ne avevamo bisogno. Questa incompetenza spesso ce la portiamo con noi nel nostro ruolo di genitori. Non avendolo sperimentato da bambini, certo, non sappiamo come farlo sperimentare ai nostri figli. Questa casa non è un albergo. Parliamo di educazione sessuale ai nostri figli, non l'abbiamo ricevuta noi nei termini, con i messaggi, con le parole giuste, facciamo fatica anche noi a parlarne con i nostri figli. Alberto, magari i nostri ascoltatori da casa possono confrontarsi con noi e raccontarci se e quando una domanda del loro bambino li ha messi in difficoltà e come sono riusciti a dare una risposta. Ci sono un'infinità di situazioni che avvengono proprio nella quotidianità in cui i figli ci interpellano e spesso ci trovano anche impreparati, e tra l'altro sarebbe anche molto importante capire quando voi genitori cogliete l'attimo, cioè qual è il momento, qual è la situazione, qual è l'occasione nella vita con i vostri figli in cui capite che è arrivato proprio il momento giusto per parlare con loro di sessualità e per aprire una porta che altrimenti, se non lo fate voi, resta chiusa. Dottoressa Giommi, mi chiedevo, si risponde a domanda risponde oppure è giusto che la mamma e il papà inizino a introdurre il discorso ai loro bambini anche in assenza di curiosità o perlomeno una sensazione di questo tipo? I genitori hanno la sensazione che al bambino non interessi e quindi non ne parlano, oppure devono comunque iniziare una comunicazione? A mio avviso devono comunque cominciare una comunicazione, perché in realtà spiegano ai figli tante cose della vita, della nutrizione, dell'igiene, dello studio, dello sport, cioè quindi essere così mascherati da non dire niente su una cosa così importante come conoscere il proprio corpo, capire la differenza, riuscire a sentire le sensazioni e le emozioni, perché poi parlare di educazione alla sessualità è parlare di tanti elementi e anche rispondere alle domande difficili, ma non è solo questo, cioè rispondere solo alle domande è come se i genitori avessero un comportamento molto passivo su questo tema in realtà invece aprire, dire si può parlare, puoi dirle a me le cose che ti interessano, sono in grado di rispondere alle domande, o se non sono in grado però prendo un impegno e ti risponderò domani, cioè che credo che aiuti, e ce lo testimoniano anche i ragazzi e le ragazze, hanno avuto una buona educazione sessuale, dicono si sono sentite avvantaggiate, cioè quindi non già con un tabù costruito molto faticoso. E mi sento anche di dire, di entrare nelle case dei nostri ascoltatori, perché ho come la percezione che nell'educazione sessuale non c'è parità tra i sessi. Mi spiego meglio. Se avete una figlia femmina è molto probabile che comunque le mamme ci abbiano provato, abbiano fatto qualcosa per prepararle al menarca, al primo ciclo mestruale, e qualcosa sia avvenuto intorno a questo tema. Mentre vi assicuro il 90-95% dei figli maschi che stanno per entrare in pubertà spesso sperimentano il loro spermarca senza mai aver avuto una mamma o un papà che abbia realmente affrontato con loro la situazione. Rifletteteci, genitori, perché è proprio in qualche modo la dimostrazione che in alcuni settori, e per esempio con i nostri figli maschi, non c'è alcuna differenza tra i limiti che aveva l'approccio educativo dei nostri nonni o dei nostri genitori e quello che stiamo usando noi, mentre il mondo intorno a loro è spaventosamente cambiato. 824 0024 è il numero che ha fatto Antonio da Prato per entrare nella nostra casa, quindi lo salutiamo, si accomodi Antonio, benvenuto. Buongiorno a lei dottoressa, a tutti i suoi ospiti. Io vi sento sempre. E se è difficile per i genitori, per i nonni è ancora più difficile, perché noi, come ha detto il professore, non abbiamo avuto un'educazione sessuale dai genitori, da nonni. Pronto? Sì, la stiamo ascoltando. No, mi scusi. No, gli volevo dire, l'altro giorno mio nipotino di 7 anni ha sentito la canzone Luca era gay, dice nonno, ma cosa vuol dire gay? Io le giuro non sapevo che cosa rispondere, ma no, perché io gli potevo anche dire, però ho detto, con tutte le parole, anche si sente alla televisione, anche ieri sera in prima serata con Masini, ti fanno delle domande che te non sai rispondere sinceramente. Io sono d'accordo a quella maestra, professoressa, che in classe ha fatto bisogna togliere questi tabù, secondo me, tanto i genitori non li tolgono. Grazie Antonio, buongiorno a lei. Dottoressa Giommi. Ma credo sia molto importante anche appunto la testimonianza di un nonno, e probabilmente i nonni sono oggi anche nonni che potrebbero svolgere un ruolo e rispondere alle domande. Credo che essere preparati a rispondere sia qualcosa su cui dobbiamo un po' lavorare, cioè anche come genitori o come insegnanti. Perché appunto giustamente le informazioni i bambini le ricevono dalla televisione, anche in trasmissione di primo pomeriggio o di prima serata. Di fatto appunto il nonno ha trovato la difficoltà di dire cosa possiamo rispondere, forse c'è anche un desiderio di delega, no? Gli insegnanti potrebbero farlo. La mia fantasia è che tutte le persone che incontrano la domanda, accettando anche a volte di non saper rispondere, possano magari cercare un libro, prendere una definizione, fare un corso, cioè molti genitori ci seguono e ci aiutano a costruire insieme un percorso di informazione. E quindi il nipotino è stato un nipotino molto piacevole, perché il nonno è stato un interlocutore e credo che appunto poteva essere rispondere. Un omosessuale in generale è una persona che ama una persona dello stesso sesso, in questo caso si sta parlando di un ragazzo omosessuale che poi si è innamorato di una ragazza, cioè che è poi legata alla canzone. Quindi ci sono anche delle parole semplici con cui si può rispondere ai ragazzi e vedere se poi loro sentono e si può ancora fare domande. Arrivano molti messaggi, in generale tutti sono dalla parte della dottoressa Giommi, cioè ribadiscono proprio è importante togliere la morbosità e insegnare ai bambini il rispetto per il proprio corpo e per gli altri, trovare le parole. A proposito di quello che diceva prima, cioè anche come genitori dobbiamo dotarci in qualche modo di strumenti. Io vi racconto una scena da Casa Pellai, perché avevamo proprio preso da poco il libro della dottoressa Giommi, che si chiama Io sono un bambino, io sono una bambina. È un un libro fatto a doppia copertina. Da una parte c'è io sono un bambino, dall'altra parte io sono una bambina. Io l'ho appoggiato su una cassa punk in casa mia, e un giorno l'Alice, che ha 5 anni, ha cominciato a vedere questo libro che è illustrato molto molto bene, me l'ha portato e mi ha detto: papà, me lo leggi? Io l'ho guardato, ho detto: sì, ma devi scegliere, vuoi che leggiamo io sono un bambino o io sono una bambina? Siccome le bambine sono molto avanti, ha detto: no, io le bambine so già come sono, forte, leggimi, io sono un bambino. Così abbiamo fatto. Jacopo, che era in un'altra stanza, ha cominciato a sentire la lettura di questo libro, è venuto e si è avvicinato, è rimasto lì in silenzio. Finita la lettura di io sono un bambino, la Alice se n'è andata e Jacopo mi ha detto: papà, gira dall'altra parte che voglio sentire anche io sono una bambina. Ecco, piccole esempio di vita quotidiana dove l'educazione sessuale avviene proprio in un quadretto familiare, semplicemente stimolata da un buon libro illustrato bene, adatto ai bambini, che automaticamente si sintonizzano con quel bisogno educativo e con quello strumento che per loro è adeguato. Infatti, perché gli strumenti oggi ci sono, quindi un libro, un cartone animato, possiamo, se non abbiamo le parole o temiamo di raccontare, di spiegare male il sesso i nostri bambini, possiamo in qualche modo, come dici tu Alberto, attrezzarci. Adesso molte scuole si attrezzano con... Sì, infatti un consiglio che io do sempre ai genitori quando li incontro nelle serate su questo tema è: andate davvero nella biblioteca comunale del vostro paese, provate a chiedere alla bibliotecaria, ci sono davvero ottimi strumenti a disposizione dei genitori. E quando questo avviene a scuola è molto importante che anche l'insegnante li abbia in mano, e come diceva la dottoressa Giommi, un lavoro preliminare con i genitori è davvero fondamentale. Noi quando conduciamo laboratori, il primo momento è un incontro in assemblea di classe con tutti i genitori con i cui bambini poi noi lavoreremo, e l'importante è far vedere chi saranno gli educatori, cosa faranno, mettere a disposizione dei genitori che vogliono verificare il percorso di lavoro che si andrà a fare con tutte le attività, e poi quello che nascerà in quel contesto chiaramente lo costruiranno i bambini. Ma questo è proprio condividere un'alleanza e un progetto educativo. Andiamo da Elide, che ci aspetta dalla provincia di Viterbo. Buongiorno Elide. Sì, buongiorno, da Sutri chiamo. Dunque, io ho un'esperienza di 25 anni fa di mio figlio che andava in elementari. Verso la quarta e la quinta elementare, mio figlio torna a casa tutto contento, così, dice: sai, abbiamo avuto una lezione sul sesso veramente straordinaria. E quindi ero molto interessata a sapere di che si trattava. Quindi mi ha spiegato che ha portato delle diapositive, ha fatto vedere, diciamo, anche sugli insetti, prima sugli insetti, sulle farfalle, eccetera, l'incontro tra i due sessi, eccetera, l'impollinamento, eccetera, poi è andata sulla femminuccia, sul maschietto, come erano combinati sessualmente, eccetera, ma tutto soft. Le dico la verità, è stata una lezione così carina, così per bene, che io mi sono sentito in dovere di prendere il diario di scuola di mio figlio, di ringraziare questo maestro, di essere contentissima per questa lezione che io non avrei saputo fare meglio. Dopodiché si sono scatenate le altre mamme, hanno fatto una grande rivoluzione, si sono riunite in nella classe e hanno deciso di contestare questa lezione. Io mi sono messa vicino al maestro, ho aperto il diario, l'ho tenuto in alto e gli ho detto: guardate, non credo di essere una mamma fenomenale io, però io ho capito che questa è una lezione molto seria, molto carina, molto educativa, molto interessante per questa età, perché questa età si fanno tante domande, tante curiosità. Perché voi contestate? Signore, due parole: per chi contestava di più era che quella che non aveva più il marito in casa, che usciva la sera lasciando i bambini alla nonna e non so dove andava, cioè degli elementi meno che devono contestarla sta cosa. Certo. Allora, direi che rilanciamo la domanda ai nostri ascoltatori: voi cosa vorreste davvero che a scuola venisse fatto con i vostri figli in ambito di educazione sessuale? Perché quando qualcuno fa qualcosa c'è sempre qualcuno che non è d'accordo. Ecco. E anche raccontiamoci i momenti, le difficoltà che incontriamo nel parlare di sesso insieme ai nostri bambini. Per esempio, stamattina Valentina, di 5 anni, mentre vedeva un documentario sugli orsi, mi ha chiesto cosa vuol dire accoppiarsi, a che età si deve iniziare a parlare di sesso. Siamo tornati insieme, la puntata di oggi è dedicata all'educazione sessuale. Quando, chi deve farla, quali parole, ci sono delle situazioni, delle domande che vi creano imbarazzo? 824 0024, in studio Alberto Pellai, in linea con noi Roberta Giommi. Adesso andiamo al nostro consiglio di lettura e poi sentiamo Cosetta dalla provincia di Milano. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola La sessualità dei bambini non è un affare dei grandi. Per ricevere a casa questo libro dovete essere il primo ascoltatore a inviare un'email a esserebenessere@radio24.it con titolo del libro, recapiti e numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Cosetta, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, sì, io avrei una, cioè più che altro, più che una domanda, un modo di potermi comportare con il bambino. Sì. Allora, io l'ho trovato su in mansarda con un suo amichetto. Sì. E ho visto che aveva comunque i pantaloni abbassati. E non, al momento ho fatto finta di niente, perché comunque la mia reazione è stata un po' di indifferenza, perché non me l'aspettavo una cosa così sì. Brevemente, ecco, perché comunque ha 8 anni e mezzo, comunque sì. Giustamente ha 8 anni e mezzo, ma diciamo che ancora non mi aspettavo una cosa così, e io non ho saputo come potermi comportare. E non gli ha detto nulla, Cosetta? Non ho detto nulla, ho cercato un po' di indagare, di vedere. Sì. Ovviamente dopo, non subito. Certo. Ma non mi ha detto assolutamente niente. Gli ho chiesto se anch'io da piccola, insomma, però niente. Allora, 2 esperti a disposizione per dare un consiglio a Cosetta. Esatto. Sì, perché almeno uno sa come comportarsi, cosa dire, cosa fare, cosa non fare. Alberto, poi allora, sentiamo la dottoressa Giommi. Allora, una cosa importante è aver verificato che insieme al bambino, che questo fosse uno di quei giochi che si chiamano esplorativi, molto simili ai giochi del dottore, che effettivamente i bambini a questa età fanno, e li fanno fondamentalmente per curiosità, per capire come sono fatti. Bisogna discutere molto bene con i bambini, che nessuno abbia obbligato qualcun altro a fare una cosa che invece non era desiderata. Perciò che uno dei due per caso sia stato portato su mansarda, abbia ricevuto degli ordini eccetera, e quindi abbia fatto tutto una serie di cose sull'altro senza che l'altro fosse realmente consenziente, quindi uno faceva e l'altro subiva, ecco, quella è una di quelle situazioni in cui bisogna invece intervenire con i bambini, insegnare come ci si può autoproteggere, che cosa si può dire e soprattutto quando si deve chiedere aiuto al bambino. Quindi in qualche modo proprio differenziare tra gioco esplorativo, tipo gioco del dottore, oppure un gioco in cui qualcuno ha indotto qualcun altro a fare qualcosa che aveva a che fare con la sessualità. Dottoressa Giommi, veniamo alle parole, alle occasioni. Magari Cosetta sta cercando l'occasione per tornare sull'episodio col suo bambino. Lo ha fatto, ma lui non dice nulla. Si lascia perdere o si chiede qualcosa? E come? Dunque, intanto concordo con Alberto, in realtà bisogna stare molto attenti che sia appunto un gioco dell'esplorazione e non qualcuno che in realtà impone a qualcun altro, perché questo potrebbe portare ad un rito di sottomissione che magari ci può preoccupare. Io comunque riprenderei il discorso, cioè, perché nell'esperienza clinica molte persone che sono stati sorpresi in gesti sessuali anche piccoli, e qui stiamo già parlando di un bambino che ha una certa età, anche se piccolo, nessuno poi ha commentato in maniera aperta, tranquilla, facendo domande, in realtà può, alla fine può lasciare come un segreto fastidioso dentro la storia delle persone, cioè, quindi secondo me la mamma è bene che riprenda il discorso, che gli spieghi che a volte abbiamo curiosità, che cosa vogliono dire i comportamenti, perché qui non è più solo l'informazione ma è anche un fare, e quindi fare dell'esperienza della sessualità può essere normale vengano fatte con un segreto, perché magari si teme che i genitori interrompano o non siano d'accordo, però dire anche appunto provare a riparlarne, adoperare delle parole che siano delle parole anche di ascolto, oppure se il bambino non vuol parlare dire guarda la mamma pensa questo, che magari se eri tranquillo tieni presente che comunque appunto bisogna stare attenti, cioè quindi io darei anche sempre, prima era più facile perché i genitori dicevano no e basta e quindi si toglievano anche dalle preoccupazioni di discriminare tra varie situazioni, oggi siamo più attenti e più persone che ascoltano, però il bambino come si è sentito, chi è questo ragazzino con cui stava facendo questa esperienza, se era successo altre volte, che cosa ha provato, cioè, io non mi preoccuperei di intervenire perché in realtà costruire un dialogo rispetto ai comportamenti è più complicato che dare informazioni. Certo, soprattutto mi sembra siete tutte e due concordi nel dire capire se il bambino ha fatto questa sorta di gioco esplorativo insieme al compagno perché tutte e due lo desideravano oppure è stato in qualche modo costretto a farlo. Sì, se era un gioco alla pari, e direi che molto facile per gli adulti spesso è proprio riaprire il dialogo semplicemente dicendo quello che avete visto, cioè con molta tranquillità dire non ne abbiamo mai più parlato, potrebbe dire Cosetta, ma mi ricordo che proprio l'altro giorno quando sono salita in mansarda io vi ho visto in questa situazione, per cui tu avevi i pantaloni abbassati, cosa stavate facendo realmente, perché per una mamma è importante sapere quello che fa il suo bambino e soprattutto capire se c'è da proteggerti oppure no. Mi sembra già, grazie per questa, perché noi abbiamo bisogno proprio da voi esperti che ci diate anche qualche frase che poi noi adottiamo a seconda della situazione per trovare quelle parole che a volte mancano. Lorenzo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, io ho tre figli, no? Effettivamente dal lato femminile mi sento coperto, sono ancora un po' piccola, 11 e 7 anni, però da piccoli diciamo gli abbiamo preso i loro libri per l'educazione sessuale. Mio figlio invece ha 15 anni e praticamente io sento il bisogno di parlare con lui di educazione sessuale, ma quando mi approccio lui è nella fase che si nasconde un po', e praticamente sembra quasi di rivivere le paure che avevo io, no? E ho paura di sbagliare e intervenire. Lei è proprio, parla come parlano in generale i papà, almeno quelli che incontro io, che in tantissimi casi dicono le mamme sono molto più brave di noi, quindi facciano loro questa cosa anche con i figli maschi. Io direi che una buona possibilità potrebbe proprio essere anche qualche volta partire da questa frase: sento proprio che a 15 anni un figlio ha bisogno di parlare di sessualità con una persona di cui si fida, chi meglio del papà, però credimi, come papà faccio fatica a trovare le parole perché mi sento proprio travolto da un'emozione che è quasi quella che avevo quando io avevo 15 anni e capivo che nessuno magari mi voleva parlare. Come facciamo a uscire da questo impasse emotivo? E spesso proprio mettendo a disposizione non un'informazione ma un'emozione, il figlio riesce a sentire quello che il suo papà sente e partendo da lì ci si può muovere. Ma vorrei sentire anche la dottoressa Giommi che consigli avrebbe da darle in questo senso. Ma intanto appunto è importante che un padre ponga questa domanda, perché la cosa che era stata detta anche prima, no? Cioè che spesso i maschi sono abbandonati a se stessi, per cui per esempio mentre le ragazzine hanno capito e imparato che la visita ginecologica è importante, i maschi il controllo dei loro organi sessuali generalmente non li porta nessuno, né imparano da soli ad andarci, quindi che un padre parli con un figlio maschio è meglio di quanto non sia e ci parli una madre. Da un punto di vista della possibilità di accesso, appunto alcuni genitori trovano la semplificazione, che magari poi è anche una scusa buona di parlare delle paure, no? Le malattie, le sicurezze, il sesso sicuro, e forse a volte è anche un modo per dare le informazioni più urgenti. Credo che in qualche modo, anche se i figli hanno delle resistenze, dire guarda, per me è il momento giusto, ho voglia di parlarne con te, anche perché ci sono tante cose da capire, forse ci possiamo confrontare tra uomini. Ecco, mi piacerebbe l'idea che un padre e un figlio maschio riescano a confrontarsi tra uomini. Alberto, tu lo stai già facendo con i tuoi figli. Ma noi abbiamo la grande fortuna in casa di avere l'assortimento molto ampio, maschi e femmine, e in qualche modo le domande possono circolare liberamente. E mi sento proprio di riprendere una domanda che è arrivata tramite SMS, cioè quando cominciare. In generale la vita offre infinite occasioni per poter parlare anche di queste cose con i figli. Dubito che abbiate avuto bambini intorno ai 4-5 anni. anni che avvicinati da una donna con il pancione non vi abbiano chiesto cosa c'è dentro quel pancione e come nasce un bambino. Quella è una straordinaria occasione per prendere spunto dalla vita e cominciare a parlare con i propri figli di educazione sessuale. Dottoressa Giommi, io la ringrazio per essere stata con noi. Vuole lanciare però un ultimo messaggio, un consiglio da portare a casa a chiusura di trasmissione? Ma io vorrei che i genitori avessero il coraggio di parlare di educazione alla sessualità, perché stanno parlando della vita e stanno dicendo che è un territorio meraviglioso dove c'è il corpo, le sensazioni, le emozioni, la possibilità di amare, perché deve essere lasciato dentro il silenzio. Sarebbe quasi bello che avessero sensi di colpa se non ne parlano mai. Certo. E forse mettersi d'accordo anche con altri adulti per parlarne insieme. Grazie alla dottoressa Giommi per essere stato con noi. Questa casa non è un albergo, per oggi termina qui. Alberto. Ci vediamo sabato prossimo. E noi vi lasciamo alle informazioni sul traffico. Buona giornata a tutti.